cane, il gatto, l'asinello, la mucca, la rana, la pecora e il coccodrillo. E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo. La mucca, la rana, la pecora.